Ecco, ma quale confino di polizia? Siberia, Siberia per l'autonomia. Stopper, il Partito Comunista. Alla destra, febbraio 74, alla sinistra, CL. Ecco, queste erano le parole di Alfio Di Bella e siamo in collegamento con Vincenzo Miliucci, che di questa emittente è uno dei fondatori, perché cominciamo un po' in anticipo l'appuntamento con il cinema, Visionari, come ogni giovedì su queste frequenze. Cominciamo prima perché abbiamo tanti ospiti, ma perché poi vorremmo cominciare con la due giorni dedicata al compleanno, al 37esimo compleanno di Radio Onda Rossa. Venerdì, ma soprattutto sulla giornata di sabato. Infatti dalle 17 al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino ci sarà la proiezione di alcuni spezzoni del vasto archivio di Alfio Di Bella. Vincenzo, ci sei? Ci sono, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, buon compleanno a noi tutti. A noi tutti. Senti Vincenzo, Alfio, allora partiamo dalla figura di Alfio Di Bella, che la cui passione principale è stata soprattutto la fotografia e poi le riprese video sono state una diretta conseguenza di questa passione. Sì, direi proprio di sì, lui è stato un fotografo eccellenza dal punto di vista delle gallerie d'arte, di cui portano tante, se andiamo a fare l'excursus delle vecchie gallerie a Roma saranno quasi un centinaio, insomma in alcune di queste c'è ancora esposta ovviamente le brochure con cui si propagandava ovviamente una serie di personali, no, collettive eccetera, e di cui appunto le immagini erano di Alfio Di Bella. Lo è stato fino all'ultimo momento, insomma, ovviamente con questo trascorso, quando noi ci incontriamo dopo sei mesi della fondazione della radio e lui è uno dei nostri immediatamente, insomma, già dall'inizio del 78 eccetera, e è stato poi ha dedicato la sua fotografia e le sue immagini al movimento nella sua estensione più vasta, da quello antinucleare a quello del mondo operaio a quello delle basi NATO in contestazione, ovviamente fino alle battaglie più civili, diciamo quella del terremoto che lo ha visto eccellente protagonista, ma poi alla nascita dei centri sociali e quant'altro, insomma, dicevo, fino a quando ha potuto utilizzare quest'occhio critico ovviamente sulla materia vivente, su tutto quello che gli si mostrava di fronte, quando smette di fare le trasmissioni a Radio Onda Rossa contro immagine eccetera, si situa, si deloca nel Reatino a Toffia, e a Toffia però non perde di vista la necessità, insomma, di comunicare, comunica appunto attraverso la fotografia con varie mostre che fa girare intorno al Reatino, ancora ritornando su Roma eccetera. Ci si ritrova e lui, fin quando il male non lo attanaglia definitivamente, gli vieta di utilizzare ovviamente le mani, l'occhio eccetera, la SLA è questa infame malattia ovviamente così progressiva eccetera, e lui riesce a fare dei particolari, dei piccolissimi particolari, amplificando ovviamente l'immagine, le gocce della pioggia oppure della neve oppure di una ruggine, insomma fa delle bellissime visioni, insomma, che ci regala di volta in volta che passa un capodanno, avviene un anno nuovo, ecco qui insomma sì. Il blow up che fino all'ultimo ovviamente riesce a mantenersi con quella capacità di visionario anche lui, insomma sì. Eccetera, e che purtroppo questa infame malattia ce lo porta via, sì, anzitempo. Sì, sì. Senti Vincenzo, sabato al Forte Prenestino vedremo una scelta ragionata di delle sue testimonianze che sono appunto una testimonianza del periodo più importante e significativo di questa radio, e come dicevi tu legata anche ai campeggi antinucleari contro le basi NATO e contro il carcere, poi il terremoto in Irpinia, alcune vertenze come quella Fiat, la Lita, l'Enel, la cacciata di Lama dall'università. E io, ascoltando l'audio, perché ancora devo, sabato andrò proprio a vedere le riprese, ho sentito solo gli audio, e quello che mi ha colpito di Alfio Di Bella è la calma e la lucidità che manteneva anche in momenti concitati. Non solo, ecco, di fronte ovviamente alla reazione costante che le forze dell'ordine hanno per loro mestiere, per il loro, come dire, servizio da questo punto di vista, formalmente dovrebbero stare al servizio dei cittadini, ma vediamo quello che è accaduto adesso l'altro ieri e ieri sulla lotta per la casa, sì, gli arresti, sì, di Paolo e Luca, insomma, e quant'altri ce ne sono, ovviamente, via di seguito. Lui ha mantenuto questa capacità non solo presente, non solo non sottraente, ma capacità, come dire, di saper mettere anche il microfono con quei primi macchine così pesantissime, no? Con quei supporti ovviamente video con cui ha aperto, come dire, una stagione insieme anche ad altri giovani del Centro Sperimentale di Cinematografia che vedevano in Radio Onda Rossa in questa nascita stupenda ovviamente di una possibilità di poter dire tutto, visto che fino a quel momento non c'era questo strumento, eccetera, che si erano avvicinati. E quindi questo suo occhio presente, insomma, io lo ricordo ancora, ecco, fammela tracciare questa visione, ovviamente, sì, in calzoncini corti, ancora giovanotto, perché parliamo del 1978 a Nova Siri, con da una parte le sue riprese, i suoi scatti, dall'altra gli scatti che facevano a lui, a noi, mentre intervistavamo gli operai dell'Eridania, degli zuccherifici, insomma, con un po' scialati tutti quanti con i calzoncini corti, ma del resto era agosto, e ancora questo volto così tracciato, così siciliano, insomma, no? Così cotto dal sole, ecco, e con questo sorriso sempre presente, con questo buon umore, direi, appunto, di fronte anche alle avversità. Pensa solo a quella del terremoto, quando Radio Onda Rossa, io ero in trasmissione quando arriva la botta del terremoto, e rimango un po' impallato, come un po' i presenti nella radio, eccetera, e cominciano ad arrivare dopo un quarto d'ora, 20 minuti, le telefonate dicendo: ma che facciamo? Non diamo una mano a sti disgraziati, insomma, cioè, lì ci pensiamo. Cominciano ad arrivare i compagni, come dire, della cosiddetta redazione informale, insomma, che famo, che non famo, insomma, la sera decidevamo di sgomberare dalle suppelletti di tre delle cinque sedi di Via dei Volsci occupati, ovviamente, eccetera, e comincia ad arrivare montagne di roba, insomma, eccetera, e immediatamente già la sera con Alfio, con Claudio Rotondi dell'Elettrico, con Peppe del Policlinico, insomma, con quelli che erano capaci a dare immediatamente soccorso e servizi, ed Alfio si candida immediatamente insieme anche a Bruno Trentin e dice: parto io. E ovviamente lanciamo st'appello e non c'è stato proprio problemi, è arrivato dopo due giorni, abbiamo riempito questi due grandi camion, sì, e si sono avventurati nell'area del terremoto, dove noi siamo arrivati per primi. L'esercito è arrivato una settimana dopo ed è venuto a mangiare nella baraccopoli che aveva costruito Alfio insieme agli altri compagni, dove ci mangiavano ovviamente 200 persone. Capisci un attimo questa storia così importante, così dedicata, così come dire, umanitaria, nello stesso tempo generosa, ma anche estremamente pratica, perché Alfio era un tipo estremamente pratico, non c'aveva solo l'occhio clinico, ovviamente, c'era, c'aveva anche le mani d'oro, sapeva fare da elettricista, da muratore e anche da stagnaro. Senti, Vincenzo, dicevo prima che sarà una scelta di alcuni dei suoi materiali sabato a partire dalle 17 al Forte Prenestino, e comunque quello suo è un archivio vasto e ancora inesplorato per certi versi, manca, gli va data ancora una fruizione completa. È proprio così, quindi questa comunicazione che stiamo facendo insieme è anche un appello ai giovani che vogliono dedicarsi ovviamente alla controimmagine, alla controinformazione, a tirare su ovviamente anche un elaborato, un percorso, un trattino d'unione tra quello che è stato e quello che sarà, quelle che sono le immagini prevalentemente o totalmente in bianco e nero e quello che oggi è il digitale, insomma, in qualche misura, e tracciare ovviamente questa vicenda che non è solamente politico-sociale ma anche tecnica. E quindi chiunque voglia cimentarsi tenuto conto che Helen, la sua cara compagna, ovviamente è completamente disponibile, insomma si sta prodigando ovviamente per dare la possibilità che questi materiali vengano utilizzati a fini propri, come si dice, eccetera, e via di seguito, c'è da scavare, ecco, insomma, scavare, da tirare fuori questa grande risorsa che sono le immagini di un periodo che tutti ci invidiano, ovviamente in Europa, forse nel mondo, ma non voglio abusare, ovviamente, eccetera, di aver vissuto, come dire, quegli anni cosiddetti meravigliosi, insomma, no, in cui il cosiddetto assalto al cielo era prevedibile o quantomeno era auspicabile ed era percepibile da questo punto di vista, e appunto alcune di queste immagini, pensa solo, no, alla cacciata di lama, che ovviamente tanti cameraman freelance, insomma, hanno tracciato, ovviamente, visto che ne sono stato uno dei protagonisti, almeno dal punto di vista di quella cacciata, vedere almeno in una di queste immagini l'ama che corre affannosamente, cioè aveva già una certa età, insomma 50 anni ce l'aveva sicuramente, e se ne va verso Viale Regina Margherita, cioè deve fare un bel pezzo di università, e in quest'affanno gli sono vicino due ovviamente sindacalisti, e ogni tanto dice a loro, non voltandosi, che fa, cepiano, arrivano, e te fa capire la vicenda cosiddetta umana anche in quel momento, no, di un testa di cazzo che è venuto per sgomberare l'università al posto della polizia e che invece viene sgomberato lui, insomma, immagina che se non sono giorni che valgono anni, come scrivevamo su Rivolta di Classe, insomma, eccetera. Ma così è la stessa storia per quanto riguarda appunto il terremoto. Pensa Alfio, che è potuto star su a 10 dei 15 giorni della rivolta della Fiat, insomma dell'occupazione della Fiat, con quel meraviglioso materiale che poi è stato già oggetto di una visione, come dire, per Radio Onda Rossa, insomma, alla pari con gli operai, conoscendo abbastanza bene, pur non essendo operaio né operaio Fiat, di quella vicenda, perché la radio ne masticava abbondantemente, qualcuno che ci chiamava Radio Onda Rossa perché noi eravamo sporchi operai, ovviamente, o operaisti in qualche misura, eccetera, e tutto quello che ovviamente ne consegue. Non abbiamo per niente detto di Comiso, insomma, a Comiso Alfio è uno dei protagonisti, ovviamente, immaginati quella giornata che precede l'8 agosto, ma soprattutto l'8 agosto, quando siamo nel 1983, quasi 8.000 compagni sono ancora in galera, la situazione delle leggi di emergenza hanno falcidiato un'intera generazione, le responsabilità della soggettività ci sono tutte, ci mancherebbe altro. E lì si ripresenta, come dire, un movimento contro un'iperbole, contro, no, l'uso dei missili nucleari posizionati in un territorio italiano nello scontro con gli altri missili posizionati in territorio dell'est Europa, insomma, eccetera, in questa follia nucleare, eccetera. Ci arrivano 700-800 matti da questo punto di vista, noi tra quelli, e quella preparazione in chiave, come dire, pacifista, perché si era ripresentata una generazione successiva che poco ne voleva sapere, ovviamente, di rispondere ad armi pari alla violenza, o quantomeno tentare alla violenza dello Stato. E allora che si fa? Ci si butta per terra la pacifista e facciamo la più grande stronzata del mondo, perché lì ovviamente le forze dell'ordine ci fanno una carneficina, insomma, no, 32-34 di noi all'ospedale, pieni di botte, di manganellate, di carci da tutte le parti, gli idranti hanno fatto l'effetto, ed Alfio lì a incidere dentro quello, insomma, a zoomare ovviamente quella vicenda, ma da cui se ne ricava ovviamente nell'insieme che fin quando c'è questa forza che dice io non mi sottopongo né manco all'iperbole, vuol dire che c'è veramente una speranza, una capacità di poter risorgere in qualche misura. Alfio è stato uno di questi testimoni. E allora noi ricordiamo l'appuntamento, chiaramente, oltre all'aperitivo qui in strada per domani venerdì, ma soprattutto sabato 24, perché oltre al concerto per presentare il nuovo disco dei Radici nel Cemento, c'è la possibilità di dare un'occhiata a una, come dice, dicevo prima, una scelta di dei materiali, del vasto materiale d'archivio di Alfio Di Bella, che di questa radio è stata una delle anime. Vincenzo, io ti abbraccio, ci vediamo sia domani che dopodomani. Senz'altro, domani e dopodomani, e nel tempo a seguire, se ovviamente tutti hanno la volontà di prendere parte a questo sviluppo, come dire, di questi materiali che certo, necessitano di essere scoperti ancora. Certo. Un abbraccio. Ciao, altrettanto Vincenzo. A te, buona trasmissione ancora. Ciao. Bene, siamo in collegamento con Tancredi Tarantino per parlare di un'iniziativa. Guardiamo avanti, l'altra faccia di Enel, che allora sarà oggi, sì, al Teatro Valle Occupato, oggi pomeriggio qui a Roma, ne parliamo con te. Di cosa si tratta, Tancredi? Sì, è un'iniziativa che abbiamo organizzato insieme ad Assud, in collaborazione con la rete Stop Enel e con il Teatro Valle, per cui dalle 7 di oggi pomeriggio in avanti, fino più o meno a mezzanotte, proietteremo delle testimonianze video sugli impatti delle attività di Enel non soltanto all'estero ma anche in Italia. E la serata sarà anche l'occasione per presentare il nuovo rapporto che abbiamo appena pubblicato su El Quimbo, che è un progetto idroelettrico che Enel sta costruendo proprio in questi giorni e in questi mesi in Colombia. Oh, tra l'altro uno dei lavori è il gigante di Bruno Federico, che è stato uno dei redattori di questa radio, e si parla in generale, ci sono vari documenti video, dei danni legati soprattutto alle grandi opere in giro per il mondo targati Enel. Sì, dalle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia alla geotermia sul Monte Amiata, agli impianti di olio combustibile di Rossano, insomma, poi ovviamente le mega dighe che Enel sta realizzando soprattutto in America Latina, appunto in Colombia e in Guatemala, e poi quel progetto di 5 mega dighe che si doveva costruire nella Patagonia cilena, ma che molto probabilmente verrà definitivamente cassata dal nuovo governo di Michelle Bachelet, che ha dichiarato che entro il 10 giugno darà una risposta definitiva. Molto probabilmente sarà un punto, diciamo, definitivo a quel progetto, che sia da un punto di vista degli impatti ambientali che quello che gli impatti sulle popolazioni mapuche indigene locali sarebbero davvero devastanti, e di conseguenza la stessa nuova presidentessa cilena ha detto che molto probabilmente rinuncerà a questo progetto. Ecco, proprio a proposito di popolazioni, un po' ovunque nel mondo è stata proprio la mobilitazione dal basso che ha ostacolato queste grandi opere. Sì, e infatti possiamo dire che proprio il caso cileno è forse emblematico, si è costituita una piattaforma internazionale che appunto si chiama Patagonia Tierra Presa, Patagonia Senza Dighe, che ha visto insieme realtà locali con organizzazioni e cittadini che in Italia molto hanno fatto per denunciare appunto gli impatti che questo progetto avrebbe avuto in loco. Per cui, se davvero la presidentessa cilena Michelle Bachelet dichiarerà la fine di questo progetto, sarà indubbiamente un successo di questa campagna portata avanti dai movimenti locali. Senti, a proposito di cinema, visto che questa trasmissione di questo tratta, segnaliamo anche i lavori che verranno presentati oggi? Sì, come dici tu, appunto ci sarà El Gigante di Bruno Federico, e ci sarà la presentazione di Green Lies, che verrà fatta a cura di Assud, e poi un altro documentario che verrà trasmesso sarà quello di Enzo Cappucci, quindi del giornalista di Rai News, che si intitola Enel, l'acqua della Patagonia tutta ad un sorso, e poi una serie di altri video, tra cui C'erano una volta l'acqua del Comitato contro il Carbone a Brindisi, Uno al giorno di Greenpeace, e poi appunto la presentazione anche di questa nuova pubblicazione sulla diga in Colombia. Senti, per quanto riguarda questi lavori video, c'è la possibilità di visionarli da qualche parte in rete? E in questo ti chiedo anche dei riferimenti legati alla vostra attività. Sì. Sì, allora, la serata di questa sera al Valle sarà anche in streaming, si potrà seguire in streaming sul sito del Teatro Valle, quindi teatrovalle.it, c'è una sezione apposta per gli streaming e lì potranno essere visionati tutti i video che verranno trasmessi, per cui chi non potrà essere fisicamente presente al Valle potrà comunque collegarsi su internet per vederli tutti o soltanto alcuni che più magari possono interessare. Comunque dalle 7 di sera o al Teatro Valle o in streaming sul sito del Teatro Valle. Benissimo, e per la vostra invece attività avete un sito di riferimento? Un sito internet? Il nostro sito è www.recommon.org, lì ci sono tutte le nostre pubblicazioni più tutte le attività che stiamo svolgendo negli ambiti che più ci competono, quindi acqua, energia, terra e nuova finanza pubblica, tutto quello che ha a che fare con beni comuni e finanza. Benissimo, allora un abbraccio, ricordiamo l'appuntamento questo pomeriggio al Teatro Valle Occupato qui a Roma. A presto. Grazie mille. Ciao Tancredi. Ciao. Tancredi Tarantino di Recommon sull'iniziativa Guardiamo Avanti, l'altra faccia di Enel, come dicevo prima, oggi pomeriggio al Teatro Valle Occupato qui a Roma. In collegamento con Manuel Zarpellon, co-regista del film Blackout, che sarà presentato in anteprima nazionale a Rosan, provincia di Vicenza, oggi giovedì 22 maggio. Manuel, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie mille a voi. Allora, un film importante perché nasce dal basso, da ragazzi di giovane età. Sì, il film nasce da un gruppo di ragazzi non professionisti, circa tra i 16 e i 17 anni. Viene scritto tutto da soli, se lo scrivono tutto da soli senza l'aiuto di nessun adulto. E poi quando hanno presentato la sceneggiatura a me e a Giorgia, non abbiamo potuto non dirgli di no, perché avevano fatto veramente un lavoro molto molto ben accurato e soprattutto aveva una magia all'interno che non saprei descrivere. Per la prima volta facevano il focus su un fenomeno così brutale come quello della violenza sessuale, però con la visione del mondo giovanile, ed è stata una cosa molto molto particolare. Ecco, come anticipavi, la violenza sessuale, in particolare la violenza di gruppo, sì, contro le donne. Esattamente. Sì, loro si sono... Praticamente tutto nasce all'interno dei circuiti scolastici, quando durante le assemblee d'istituto spesso vengono invitate delle associazioni per promuovere alcune tematiche, e in quell'occasione venne invitato un'associazione che portava una campagna di sensibilizzazione, quella del Fiocco Bianco, sul fenomeno della violenza sessuale di gruppo, soprattutto ai danni dei minori, e loro sono rimasti sconcertati sia dei numeri che questa realtà purtroppo registra, sia dal fatto che spesso e volentieri sono proprio gli amici, i coetanei, le persone che frequentano tutti i giorni, che in un momento di pazzia, spesso per eccessi d'alcol o per serate brave, finiscono con queste azioni inumane a danni proprio di una loro amica, di una loro conoscente. In particolare loro si sono sentiti molto vicini alla storia di Carmela, quella ragazza di Taranto che venne brutalizzata da un gruppo di amici per più giorni e che poi non resse il trauma psicologico, e appena saputo che sarebbero stati scarcerati i suoi aguzzini decise di togliersi la vita. Ecco, dicevi risultato di momenti di pazzia, di notti brave, però e anche ne ragionavamo la scorsa puntata riguardo un film Stalker che insomma riguarda anche questo, la violenza sulle donne. È comunque il frutto di frutto malato di una società che comunque oggettivizza la donna. Sì, sì, sì, io credo sia questo problema, ma anche il fatto che è una società che ha perso il senso della comunicazione. Tutto viene delegato spesso e volentieri, soprattutto in fascia giovanile, ai messaggini sul cellulare, a Facebook, ad altri social network, e non c'è più il confronto diretto. Quindi è molto più facile approcciare la persona dietro a un computer, poi in realtà quando vedi che le cose assumono una, sono diverse, spesso volentieri non riescono ad affrontare un no. Nella loro raccolta di storie capita spesso che addirittura questi ragazzi che sono vittime, che sono ovviamente i carnefici, non si sono neanche accorti di quello che hanno fatto. La giustificazione più usata è ma io pensavo che a lei andasse bene così. Cioè, e la ragazza viene vista effettivamente come un oggetto, come un qualcosa che se voglia prendo. Sì. Senti Manuel, quanti studenti e studentesse ha coinvolto questo progetto? In totale sono 12 ragazzi di dell'associazione Movies Geyser, che è un'associazione dove sul finire della terza media cominciano a frequentare questi corsi per imparare a conoscere il cinema, però nel complesso ha coinvolto tutto un centro studi, perché poi le riprese sono state fatte all'interno di alcuni istituti scolastici, quindi le comparse sono stati i loro stessi amici, diciamo che avremmo coinvolto un centinaio di persone sicure. Che tipo di fruizione sarà possibile di questo lavoro? In questo momento noi abbiamo deciso, come essendo un lavoro nato dal volontariato, questa sera tra le altre cose verrà presentato proprio in un cinema gestito da volontari, di seguire questa linea, cioè quello di portarlo nei cinema magari più piccoli, all'interno degli istituti scolastici, in occasione di assemblee, in occasione di momenti di incontro e di aggregazione giovanile, ce lo distribuiremo noi, faremo questo sacrificio. Poi una cosa che ci tengo è che il film è stato presentato quest'anno al Vittorio Veneto Film Festival, l'unico film italiano in concorso, ed è riuscito a vincere il premio Pizzoc, la categoria Pizzoc, ed è stato significativo che il voto a questo film sia stato dato proprio da una giuria di 300 ragazzi che gli hanno dato il 95% dei voti. Quindi i giovani che hanno votato i giovani che chiedono questo tipo di prodotti, è una cosa veramente che dà soddisfazione. Sì. In chiusura, ci dai riferimenti internet per chi volesse saperne di più? Sì, noi abbiamo una pagina Facebook che è www.facebook.com/blackoutilfilm, oppure si trova il sito diretto del film, che è blackoutfilm.it. Ricordiamo la proiezione di questa sera a Rosà, in provincia di Vicenza. Ci dà gli estremi, Manuel? Sì, la proiezione sarà alle 20:30 presso il Teatro Monte Grappa di Rosà, dove saranno presenti anche tutti gli attori del film, i ragazzi, e ci saremo anche noi, io e Giorgio, come registi. Alla fine ci intratterremo con il pubblico per spiegare la genesi di questo progetto e magari sentire un po' un confronto a caldo su come hanno visto e vissuto il film. Benissimo, allora un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille a voi, un saluto a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Manuel Zarpellon, co-regista del film Blackout, presentato questa sera a Rosà, in provincia di Vicenza, giovedì 22 maggio. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema il giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta di quest'oggi la trovate sia sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Oh, bene, mi è arrivato anche un messaggio rispetto al primo intervento di Vincenzo Miliucci, che è uno dei fondatori di questa radio. Prima, parlando del terremoto, ha parlato di Bruno Trentin, invece si trattava di Giorgio Trentin, il nostro direttore responsabile di allora. Questa è una precisazione dovuta. Allora, siamo in collegamento con Luchi Massa, che è la direttrice della settima edizione di Divergenti, il festival del cinema trans, che avrà due sedi differenti. La prima è a Bologna da oggi fino al 25 e poi a Napoli dal 2 al 6 giugno. Luchi, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ben ritrovato anche a te. Seguiamo ciao, tutte ciao a tutti quanti. Seguiamo tutte le edizioni di Divergenti, il cinema trans. Raccontaci un po' di quest'anno. Allora, comincerei dal tema di quest'anno, che è il tema del transito e al complesso intreccio tra percorso medico ed esperienza reale. Infatti il titolo di quest'anno è Attraversamenti verso la felicità, oltre il bisturi, i sogni, le storie e l'amore. Ci si interroga sulla relazione tra la sala operatoria e la vita con tutti i suoi risvolti. E a questo tema è dedicata la simposia, e l'abbiamo voluta proprio chiamare così, al femminile, simposia, che è aperta al pubblico, in cui interverranno tante persone trans proprio per parlare appunto oltre il bisturi e sul discorso della medicalizzazione obbligatoria. Si collega anche la campagna Un altro genere possibile, che appunto è la campagna facendo il MIT. E per intendersi, per chi non lo sa, dico due cose. Per ottenere la possibilità di avere il cambio del nome e del sesso anagrafico senza intervento chirurgico, questa è la battaglia che sta facendo il MIT, diversamente dal fatto che invece in Italia la legge italiana prevede che devi per forza operarti, quindi è una forzatura, direi. Quindi quest'anno è tutto sul benessere delle persone trans, e fra l'altro abbiamo, così come festival, posto una domanda dopo, diciamo, arrivati ai 7 anni. Spesso si dice, sentiamo dire, no? Che le persone trans vivono in un corpo sbagliato. Noi invece così poniamo questa domanda dicendo: forse è il mondo attorno alle persone trans che è sbagliato. E così poniamo questa domanda anche ai radioascoltatori, vediamo come la pensano, insomma. Senti Luchi, dicevi prima della situazione quasi impositiva qui in Italia rispetto all'identità sessuale. Nel resto del mondo che cosa succede? Allora, dipende. Per esempio in Spagna si può avere il cambio del nome, si intende ovviamente sui documenti, no? Rispetto all'aspetto che hai, senza per forza doverti operare. Sì, diciamo che ci sono varie forme giuridiche diverse, svariate. Diciamo che la legge italiana è quella ancora legata alla legge 164, insomma, in cui per avere il cambio del nome sul documento devi per forza operarti, che è un'imposizione un po' troppo eccessiva, e molte persone trans e transgender ritengono che non sia una cosa piacevole, insomma. Al di là delle legislazioni in giro per il mondo, volevo chiederti se un po' ovunque il movimento trans ha conquistato il rispetto. Allora, guarda, secondo me sì, nel senso che ci sono tantissime intanto associazioni che lavorano proprio sul benessere delle persone trans e transgender, e questo è importante. E si sta facendo, almeno per quanto riguarda il MIT, con il discorso di del festival, per esempio, quindi facendo cultura, anche un una campagna di empowerment rispetto alla vita delle persone trans, perché spesso, come tu ben sai, lo stereotipo sulle persone trans, anche attraverso i media eccetera, è sempre molto negativo, per cui è molto interessante il fatto che soprattutto le nuove generazioni, sia M2F che F2M, stanno lavorando molto sulla questione del benessere personale. Sì, sì. E quindi è giusto che appunto nel nostro titolo tocchiamo i sogni, le storie, l'amore. Sì. È fondamentale questo. Sì, rispetto all'Italia, le tue parole mi facevano venire in mente che è un movimento circoscritto rispetto all'opinione pubblica, soprattutto al mondo della prostituzione. Eh beh sì, praticamente si dà solo questa immagine qui, che poi voglio dire, va bene, sono tante sex worker che sono autodeterminate e scelgono apertamente di fare questo lavoro, però ci sono anche tante altre situazioni, tante professionalità. Tra l'altro noi quest'anno facciamo una cosa molto bella, all'interno del festival ospitiamo e abbiamo chiamato così i talenti trans. Quindi avremo due ospiti, una è Emily De Salve, che aprirà stasera, è una cantante lirica transessuale baritono al mondo, l'unica, che viene da Lecce e canterà un'aria per noi proprio all'interno della inaugurazione. Tra l'altro lei è anche dentro al SIA, un documentario che trasmetteremo nel festival, e Margot Minelli, che è una performer trans che dedica alle dive del cinema come Marilyn Monroe e Liza Minnelli la performance di questa sera. Quindi abbiamo dato spazio, certo, alle professionalità artistiche, diciamo. Sì. Senti Luchi, in chiusura volevo chiederti quante sono le opere che presenterete e poi i riferimenti internet per la programmazione. Allora, quest'anno sono 16 film tra lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, quasi tutte, direi 15, tutte in competizione di giuria, e poi insomma volevo solo così citare il fatto che quest'anno abbiamo una buona produzione italiana con 4 documentari italiani, e questo è molto importante. Fra l'altro apre Fuoristrada, come no, come no. Voglio dire, in casa vostra, sì. E sono stupende loro, sì. Per cui penso che se lo meritano il fatto di aprire il festival. Bene. Luchi, allora ricordiamo questo doppio appuntamento sia a Bologna dal 22 al 25 che a Napoli dal 2 al 6 giugno. Esatto, il 2 al 6 giugno, che è una bella collaborazione perché, come dire, esportiamo il cinema trans anche a Napoli, e anche lì porteremo parecchi film, insomma, nelle due giornate. Tra l'altro anche Face in Mirror, che è questo film iraniano che abbiamo dato l'anno scorso e che ha anche vinto, molto importante, e anche un documentario su Bambi, una delle pioniere della visibilità trans francese. Benissimo. Quindi sì, è una bella collaborazione. Luchi, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Luchi Massa, direttrice della 7ª edizione di Divergenti, Festival del Cinema Trans. Giancarlo Zappoli di My Movies sul film Welcome to New York, distribuito su Anika On Demand a partire da oggi, giovedì 22 maggio. Giancarlo, ben ritrovato. Ben ritrovato a te. Allora, un film che già ha scatenato parecchie polemiche, soprattutto da parte dei diretti interessati. Mi sembra che fosse abbastanza evidente. Peccato che però i diretti interessati abbiano anche il diritto di muoversi in questo senso. Poi invece bisogna anche andare a vedere che è un film, cosa certo. Che non tutti hanno fatto, secondo me. Allora, per chi ci ascolta, cos'è questo oggetto Welcome to New York? Beh, è un film che si rifà ovviamente alla vicenda nota di Strauss-Kahn, presidente, direttore del Fondo Monetario Internazionale, che viene arrestato a New York in seguito a un tentativo di stupro nei confronti di una cameriera d'albergo, ma che poi in realtà sta dentro assolutamente al cinema di Abel Ferrara. Cioè, Ferrara ha scelto questo soggetto sicuramente sapendo che avrebbe fatto scandalo, ma anche perché è un soggetto di quelli che entrano perfettamente nel suo modo di raccontare. Credo che il fatto che stanotte, permettimi di dire questo fatto di cronaca immediata, questa notte abbiamo avuto attorno agli 800 ingressi a vedere il film, dia la testimonianza che non ci sia stato soltanto un richiamo scandalistico, ma anche una passione, diciamo, cinefila. Sì, anche legato al fatto che Abel Ferrara negli ultimi anni difficilmente ha trovato l'ingresso in sala qui in Italia. Ecco, e credo che questo sia anche il futuro di una parte del cinema, e noi di My Movies siamo contenti di farne parte, cioè di dare spazio a quel cinema che per una sorta di censura di mercato, chiamiamola come vogliamo, poi non riesce ad arrivare a quello che dovrebbe essere il suo pubblico. Sì, suo pubblico invece c'è, e la prova di stanotte, il fatto che penso che anche nei prossimi giorni la cosa si protrarrà, lo dimostra. Senti Giancarlo, io non ho avuto purtroppo modo di vederlo ancora, qual è stata la prospettiva di Abel Ferrara sulla vicenda? Beh, la prospettiva di Abel Ferrara è innanzitutto dichiarata in apertura, nel senso che c'è un cartello che dice noi i fatti processuali sono noti a tutti, quelli sono, il fatto privato e chiaramente ce lo siamo andati a ricostruire noi, come è normale nel cinema, e poi che ci sia in premessa una finta intervista a Depardieu, al quale viene chiesto lei si ritrova in questo personaggio, dice no, io lo detesto i politici ma va giusto bene, il mio mestiere d'attore è fare qualcosa che non sia esattamente quello che penso io. Certo. Poi per il resto c'è tutto il tema della sessualità, c'è il tema forte della redenzione. Devereaux, che è il nome che viene dato al personaggio, dice che all'ora della fine non vuole essere salvato, ma più che sul sesso, che chiaramente occupa la prima mezz'ora del film, sono solo rapporti sessuali a pagamento. È quello che credo che abbia colpito Ferrara è l'incapacità a un certo punto del personaggio e della persona nella realtà a distinguere tra il sesso prezzolato e invece il bisogno di avere un consenso da parte di qualcuno che non è lì perché l'hai pagato. Questo spesso è spesso legata al potere, questa certo, assolutamente, e Ferrara lo mostra in maniera assolutamente precisa, così come è capace anche di mostrare anche che a un certo punto quest'uomo aveva degli ideali. Ha iniziato la propria carriera politica e nel mondo finanziario pensando che fosse possibile aiutare il mondo, cambiare la situazione della povertà, della fame, eccetera. Ora non ne ha più nessuno, e per cui l'elemento da cui fa più fatica a staccarsi, a combattere è se stesso, e questo viene fuori con grande rigore nel film. È chiaro che poi io capisco che i diretti interessati abbiano avuto qualcosa da ridire su un'immagine così, ma è naturale. Certo. Senti Giancarlo, dici un po' della distribuzione Anika On Demand rispetto a questo film, come sarà fruibile? Allora, la distribuzione Anika On Demand sarà adesso disponibile dopo questa prima notturna, ogni giorno sul sito di My Movies, al costo di 3,99 euro. Chiunque potrà accedere e vedere il film. Un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a te e buon lavoro. Grazie, ciao. Giancarlo Zappoli di My Movies sul film Welcome to New York, distribuito su Anika On Demand a partire da oggi, giovedì 22 maggio. E ritroviamo Eros Achiardi per parlare con lui del documentario collettivo Sotto l'Argine, che sarà presentato al Centro Sociale Occupato Ricomincio dal Faro qui a Roma sabato 24 maggio. Eros, ben ritrovato. Ciao Federico, un piacere per me essere di nuovo con voi. Bene, ciao. Altrettanto. Senti, che ruolo rivesti tu in questo film collettivo? Io sono stato il tutor di alcuni dei registi che hanno realizzato questo film collettivo e sono stato il coordinatore del progetto dopo che Daniele Gaglianone, che ha seguito la prima fase di preparazione dei registi e l'individuazione delle realtà da raccontare, io ho coordinato gli altri tutor e ho coordinato poi la post-produzione del progetto. Allora, si tratta degli studenti della Scuola di Cinema Gian Maria Volonté. Si parla di singoli episodi legati ad un quartiere che è quello di Magliana, giusto? Sì, sì, sì. Quartiere Magliana, dove è nata la Scuola Gian Maria Volonté, cioè dove ha sede la Scuola Gian Maria Volonté. Qual è stato lo sguardo d'insieme di questi giovani? I ragazzi sono stati invitati da Daniele Gaglianone nelle prime due settimane di preparazione di questo progetto a conoscere profondamente il quartiere e individuare dei personaggi che potessero raccontare l'umanità attuale del quartiere attraverso l'indagine di varie generazioni. Vedendo il film realizzato, l'elemento della lotta in varie accezioni, in varie forme, qualcosa che secondo me caratterizza tutti questi episodi, dalla lotta per la conquista dei diritti sociali, le lotte degli anni 70 che sono state realizzate nel quartiere Magliana per avere diritto appunto alle case popolari, alle lotte magari più attuali che riguardano appunto occupazioni che ci sono state più di recenti, a forme di conquista e osservazione della dignità personale. Lo sguardo, diciamo che nel complesso i ragazzi non hanno avuto l'intenzione di fare un film di denuncia sociale, ma proprio insomma c'è di conoscere dei personaggi rappresentativi e fare dei ritratti di questi personaggi e della loro relazione con gli spazi della Magliana. Naturalmente essendo composto da vari cortometraggi documentari, questo lavoro, la forma del ritratto documentario, cioè individuare un personaggio in particolare per raccontarlo in relazione allo spazio, era quella più adatta e quella che hanno quasi tutti i registi praticato per realizzare il loro episodio, quindi dall'individuazione di un uomo, l'uomo del fiume che pesca quotidianamente nel fiume, appunto, insomma, cioè che dà sul quartiere, nella parte di Tevere che dà sul quartiere e vive nella casa occupata 8 marzo, ha il racconto di una donna ormai settantenne che ha vissuto una fase molto battagliera nella sua giovinezza e che adesso scrive per lasciare a sua nipote idealmente un diario di quella che è stata la sua esperienza. E così si conclude il documentario, un ragazzo straniero, Daniel, un ragazzo indiano che ha trovato nel quartiere Magliana un microcosmo veramente vitale, cioè la scuola per stranieri in senso inverso nel quartiere Magliana, ma sceglie alla fine, nonostante questa accoglienza che ha ricevuto in questo microcosmo, di dire: io comunque in Italia in questo momento mi sto perdendo qualcosa che la possibilità di studiare per costruirmi veramente un futuro, quindi decide di andarsene dalla Magliana, di andarsene da Roma, di andarsene dall'Italia. E si conclude quindi con questo abbandono del quartiere, questo saluto al quartiere, saluto all'Italia, perché per questo ragazzo è la cosa più giusta da fare in questo momento, tornare al suo paese per poter pensare di avere un futuro e non lasciarsi, come dire, imbrigliare da quello che insomma sembrava una condizione già stabilita. Senti Eros, non so quanti di loro provengano dal quartiere di Magliana, comunque in ogni caso quanto tempo hanno trascorso alla ricerca delle loro storie? Per cercare le loro storie, dopo il periodo molto intensivo delle prime settimane, hanno avuto un mese di tempo per riuscire a mettere a fuoco veramente quello che raccontavano e proporre delle bozze di progetti. Poi nel momento in cui i loro progetti, perché i ragazzi che hanno partecipato a questo laboratorio sono stati 12, 7 progetti di questi sono stati poi selezionati per entrare a far parte del documentario, da lì c'è stato un rapporto prima delle riprese di dal mese al mese e mezzo in cui i ragazzi hanno frequentato, hanno conosciuto i loro personaggi e hanno avuto proprio uno scambio umano molto intenso che secondo me risulta poi, insomma, cioè si vede traspare dall'immagine del documentario. Sì. Quindi dal momento in cui hanno messo a fuoco questo oggetto, le riprese, sì, circa è passato un mese e mezzo. Invece nella fase precedente, quella proprio della ricerca di cosa raccontare, quanto è passato? Nella ricerca di cosa raccontare, in tutto un mesetto. Senti Eros, oltre la serata evento al Ricomincio dal Faro, che tipo di distribuzione ci sarà di questo lavoro? Noi puntiamo a far sì che il lavoro possa avere ancora per un anno, visto che è un lavoro recente, concluso nel settembre del 2013, ancora per un anno noi lo manderemo nei festival. Per adesso è stato visto a Visioni Fuori Raccordo lo scorso autunno, poi ha girato per diversi festival, per ora italiani, perché non è ancora sottotitolato. Okay. Stiamo proprio concludendo in questi giorni sottotitoli in inglese, e poi puntiamo anche domandandoci di quella che può essere l'accoglienza all'estero di un quartiere che all'estero magari non è conosciuto come può essere in Italia, per cui si è costituita una mitologia spesso negativa e superficiale su questo quartiere, ma un quartiere conosciuto, quindi noi contiamo che il lavoro, proprio perché tocca delle corde universali, ma nel frattempo riesce a indagare molto efficacemente proprio la località e la specificità del quartiere, possa essere apprezzato anche all'estero. Quindi diciamo che ancora per un anno l'obiettivo è quello di farlo girare il più possibile nel festival. In chiusura, c'è un vostro sito internet? C'è il sito internet legato alla Scuola Volonté. scuolavolonte.it. Non abbiamo ancora un sito legato al documentario. Eros, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie Federico, alla prossima. Ciao. Eros Achiardi, il regista Eros Achiardi, sul documentario collettivo Sotto l'Argine, presentato al Centro Sociale Occupato Ricomincio dal Faro qui a Roma, sabato 24 maggio prossimo. Un piacere, il piacere di avere il Massimo Vattani, direttore della quarta edizione di Contest, il documentario in sala qui a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, dal 27 maggio al 1 giugno. Massimo, ciao. Ciao Fred, come va? Bene, tu? Tutto a posto, grazie. Quarta edizione, documentario in sala, raccontaci di quest'anno. Diciamo, quest'anno, l'edizione di quest'anno è... ha uno sviluppo che credo sia abbastanza naturale, nel senso che la rassegna degli 8 documentari italiani in concorso lascia il posto, lascia il passo a una, a quella che abbiamo definito una sorta di casa del documentario. Infatti il programma prevede non soltanto i 10 titoli italiani in concorso che sono della selezione dell'anno 2013-2014, per la maggior parte in anteprima a Roma, ma questa casa del documentario riprende appunto una rassegna di documentari internazionali, anche in conseguenza di questa relazione che abbiamo iniziato nel corso di quest'anno al Nuovo Cinema Aquila, proponendo moltissimi documentari internazionali di livello, devo dire. E la cosa, quella che ritengo più importante, che porti con sé l'elemento di novità maggiore, è questo concorso di audio documentari realizzato da tratti documentari audio, che vede appunto 7 audio documentari in concorso per la prima volta, anche per definizione, come dire, stabile dei luoghi in dove vengono usufruiti gli audio documentari. Invece rompe un po' questo meccanismo e propone appunto l'ascolto in sala. Audio documentario significa un lavoro, un documentario realizzato senza immagini, dove il lavoro sul suono è particolarmente importante, non tanto a sopperire le immagini mancanti, ma quanto appunto in presenza di questo elemento che non c'è, diciamo, è quasi inevitabile che si sviluppi in maniera maggiore il suono, i suoni, per rendere appunto questa mancanza. Ma poi questa mancanza è anche un errore che la sto dicendo così, è un tratto proprio, è una direzione che in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni forse sta prendendo più spazio, ottiene più confidenza da parte di coloro che apprezzano questi elementi, e che in qualche maniera ho voluto inserire all'interno di questa rassegna per la logica che ti dicevo prima, cioè una casa che ospita le varie forme del documentario, e in questo caso mi è sembrato assolutamente adeguato in riproporlo in un programma unico. Sì. L'ultima cosa, ma sicuramente sicuramente quella non meno importante, è questo focus che dedichiamo a un autore abbastanza sconosciuto in Italia, come tantissimi, e che invece trova sostegno e partecipazione ai suoi progetti sia filmici che di arte contemporanea. È un artista che si chiama Stefano Doardi, di cui proiettiamo 3 film che sono una, diciamo, una buona componente della sua cinematografia realizzata, di cui l'ultimo si chiama Mancanza Inferno, proveniente dal Festival di Rotterdam, invitato alla prossima Biennale di Venezia, e che parte dalla considerazione, è un film sull'Aquila dopo il terremoto, ma parte appunto da alcune considerazioni abbastanza inusuali: quali sono le cose che vengono a mancare dopo un terremoto di tale portata e che spesso noi preferiamo pensare che siano soltanto mancanze strutturali o mancanze di case o mancanza di servizi e cose del genere, mentre invece le mancanze sono anche interiori e rappresentano forse l'aspetto più grave di questi grandi cataclismi, di questi grandi eventi cosiddetti. Tutto questo forma il programma del contest di quest'anno. Era anche il caso che dopo tre anni, questa è la 4ª edizione, proponessimo un qualcosa che fosse più completo e che sapesse anche rispondere a quelle che sono le esigenze degli spettatori e delle spettatrici che oramai, diciamo, vengono al cinema a vedere la programmazione di contest, devo dire, senza neanche grandi sollecitazioni. Questo è un po' il contenuto di quest'anno. Senti, i tuoi criteri di scelta rispetto alle opere che proponi, Massimo, quest'anno? È una selezione mista, ovviamente tutti ne sono al corrente. Abbiamo a fine marzo fatto un bando di partecipazione, quindi si potevano inviare i film in selezione, e poi altri, elemento che tu conosci perfettamente perché rimanda inevitabilmente al passato, sono film che io vedo in giro per l'Italia e non solo in alcuni festival, e non ultimo una serie di segnalazioni che vengono da amici o persone interessate, in qualche maniera, diciamo, da appunto da queste forme collettive partecipative che io ho posto a comporre poi il programma definitivo. È assolutamente sempre molto complicato, nel senso che è vero che questi sono documentari in anteprima a Roma, fortunatamente alcuni di loro hanno già frequentato e vinto in alcuni altri festival più importanti italiani e internazionali, come Il Segreto al Torino Film Festival, lo stesso che il film Il Segreto ha vinto il Cinema Durel nell'ultima edizione, o Per Ulisse di Giovanni Cioni, che ha vinto il Festival dei Popoli. Insomma, sono assolutamente in anteprima a Roma, hanno già visitato però alcuni festival più attenti, come dicevo, e alcuni festival internazionali. Sì. Per quanto riguarda invece la selezione degli documentari, questa è stata affidata a un gruppo di selezione che potremmo ricondurre a questo gruppo che si chiama Documentari e Audiodoc, che offre anche un premio di 1.000 euro, che è un premio importante, diciamo, per questa, forse per incrementare, anche per dare spazio e curiosità a questo formato, diciamo così, inusuale. Devo dire che dai i primi elementi di partecipazione, devo dire che c'è moltissima curiosità e sono assolutamente contento di questa partecipazione emotiva per il momento, e che penso e spero si possa anche trasformare in una partecipazione attiva. Sì. Questo è. Cerchiamo anche la prossima settimana di riparlarne a festival in corso. Massimo, ci dai riferimenti internet per la programmazione? È il solito www.cinemaaquila.com. Devo dire, sulla destra c'è una ampia finestra contest che fa sì che il festival è praticamente tutto lì, ma potete seguire le schede dei film nazionali, le schede dei film internazionali, degli audiodocumentari, degli ospiti che ci saranno. Lascio solo dire che dei 4 documentari internazionali che proponiamo, sono assolutamente felice di ospitare Sylvain George, ricorderai l'intervista che abbiamo fatto in radio lo scorso anno. Sì. C'è una persona che ha presentato, che viene a Roma a presentare il montato finale di Verse Madrid, The Burning Bright, che è la sul movimento M15 degli Indignados spagnoli, un film durato 4 anni che ha subito diverse trasformazioni. Sylvain ha voluto lavorarci fino all'ultimo per dare il senso più che riteneva più corretto a questo film. Sarà qui a Roma nostro ospite a presentare il film, e quindi vi invito a partecipare anche a questa visione di uno dei documentari che io ritengo non solo essere in cima alla classifica dei miei preferiti, ma uno dei documentaristi europei assolutamente più importanti in questo momento. E la serata di Sylvain George sarà il 31 maggio alle ore 20 in sala 1. I programmi sono un po' dappertutto, anche sul sito, quindi non avete nessun tipo di difficoltà a reperire informazioni e a vedervi al Cinema Aquila. Aggiungo e concludo che l'ingresso è gratuito per i minori di 25 anni, questa è una novità che abbiamo voluto mettere quest'anno. L'ingresso agli audio e documentari è anch'esso gratuito. T'abbraccio e magari ci sentiamo la settimana prossima. Assolutamente, ciao Fede, grazie. Ciao Massimo. Massimo Vattani, direttore della 4ª edizione di Contest, il documentario in sala, il nuovo Cinema Aquila qui a Roma dal 27 maggio al 1 giugno. Visionari su Radio Onda Rossa. Bene, siamo riusciti a collegarci con Davide Cordova, autore del soggetto del film Più buio di mezzanotte, uscito in sala lo scorso giovedì 15 maggio. Davide, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, intanto complimenti per la storia, ho avuto modo di vedere il film prima che uscisse in sala, raccontiamolo per chi ci ascolta. Bene. Allora, Più buio di mezzanotte non può fare ciò che si dice di solito in Sicilia, un detto nostro siculo. Mia nonna mi diceva sempre: più scuro diventa notte, non può fare. Me lo ripeteva tutte le volte che mi doveva ricordare che dopo un momento buio nella nostra vita non può che tornare la luce. E quindi abbiamo scelto questo come titolo perché lo trovavamo abbastanza rappresentativo per quello che era la storia che stavamo raccontando. Gli sceneggiatori hanno cercato di prendere, fare tesoro di ciò che io ho raccontato per farlo diventare comunque qualcosa di universale, perché in realtà quello che ho raccontato io accadeva negli anni 80, però dato che in Italia mi sembra che non sia cambiato parecchio da allora, quindi abbiamo cercato di rendere questa storia universale, e quindi stiamo raccontando in realtà l'adolescenza non mia, ma l'adolescenza di tutti quei ragazzi che ancora oggi vivono un disagio e non sono sostenuti, non sono aiutati, proprio perché questa verità spesso spaventa. Senti, l'identità, vivere la propria identità sessuale in quel decennio, ma insomma non solo, e nel sud in particolare, in Sicilia e in particolare ancora di più a Catania, non è stato semplice, immagino. No, affatto. Io in realtà il ricordo che ho di me in quegli anni è che proprio io ero alquanto sessuato come persona, perché il mio modo di manifestare era esattamente come io ero, avevo queste sembianze molto efebiche, quindi ed era comunque tutto alimentato da quello che i media passavano, perché a quel tempo i personaggi musicali, dato che io ho amato tantissimo la musica di quel tempo, erano veramente dei personaggi che mi, come dire, quasi incoraggiavano a vivere in questo modo. E quindi niente, il rapporto con il sesso ho cercato sempre di, come dire, proprio per paura di quegli ambienti che mi circondavano, di viverlo, di lasciarlo proprio da parte. Ecco, dicevi della musica, la scena glam ha avuto un peso determinante nei più giovani a partire dagli anni 70, ma anche, come raccontate voi nel film, per gli anni 80. Certo, certo, infatti guardo, proprio a confermare ciò, in questi giorni mi stanno scrivendo da tutta Italia decine di ragazzini che stanno vivendo questo disagio, e che siccome in televisione non passa più nulla di tutto ciò, perché non c'è nessun artista che, pur essendo omosessuale, si dichiara come si faceva a quel tempo, questi ragazzini mi dicono grazie di questo racconto, perché io mi sento un alieno e adesso grazie a te so di non esserlo, perché si sentono soli. Senti, quindi a quel tempo la musica ci aiutava in questo senso. Sì. Senti, io non mi sentivo solo, mi sentivo giustificato dal mio essere strano, perché pensavo, se voi Giorgio lo fai in Inghilterra, lo posso fare anch'io a Catania. Certo, certo. Cioè, la scena è anche quella della prostituzione legata all'omosessualità. Eh sì, certo, è normale, quando nessuno ti fa lavorare, ti chiudono tutte le porte in faccia, che fai? Quello è il mezzo più... l'unico mezzo che ti rimane per sopravvivere. Senti, dicevi che non sembra essere cambiato molto, come mai? Che impressione ti dà questa verità? Ma sai, io mi accorgo sempre di più questo clima di omofobia che viviamo. Io non vorrei che ci fosse la giornata contro l'omofobia, ma proprio perché non vorrei che ci fosse l'omofobia. Sì. Però è inevitabile dire che questo esiste invece. Quindi ancora purtroppo le difficoltà ci sono pure tante. Sì. Sento, in questo hai avuto, mi dicevi, ti hanno contattato tanti giovani, ecco, la loro esperienza. Sì, mi hanno scritto tante persone. Questa cosa da un lato mi ha scioccato, perché mi ha disorientato, cioè ci sono addirittura due ragazzi che mi hanno chiesto di poter venire a Catania e se magari io li posso ospitare, ma sono dei ragazzini minorenni. Questa cosa qua è una cosa che mi ha proprio detto, mio Dio, cioè è una realtà, non se ne parla, ma si dovrebbe parlare di questo, no? Sì, sì. Senti, la scelta di restare a Catania? Di tornare a Catania. Di tornare a Catania, sì. Io ho vissuto a Roma per 20 anni e ho approfittato proprio del periodo del film, durante i casting, ho approfittato di quel periodo per tornare giù. Non è una scelta, è un bisogno. La mia terra è una terra fatta di energia, l'energia del mare, del fuoco, e questa cosa, quando stai troppo tempo lontano, ti manca. Sì. E poi avevo voglia pure di conoscere i miei genitori, dato che non ho mai passato abbastanza tempo con loro, e quindi ho pensato che questo fosse un momento giusto per farlo. Ogni volta che mio fratello mi chiamava dicendo mamma sta male, mi veniva un colpo, pensavo mamma mia, devo andare. Ho rimandato per troppo tempo e adesso sto bene con me. Senti, è stato un momento riconciliante? Sì, sicuramente. No, ma devo dire che negli anni era già... c'era già stato, insomma, avevamo lavorato tanto, soprattutto con mio padre, però la quotidianità sicuramente è importante, sì, serve. Senti Davide, è bello poter... dimmi. Finisci la frase, è bello poter... No, dicevo è bello potersi svegliare la mattina e fare colazione con tuo padre, no? Bere un caffè, fatto anche di silenzi che però spesso dicono tante cose. Volevo chiederti com'è andata questa prima settimana di programmazione? Ma credo sia andata bene, ti ripeto, io ho le mie due pagine Facebook intasate da messaggi e... molto belli, insomma, di ringraziamenti soprattutto da parte di ragazzi, ma anche da parte di qualche genitore, qualche mamma che mi ha scritto dicendomi che magari spesso ciò che accade la impaurisce e grazie a questo film forse ha trovato un po' di luce, ha cercato di trovare a fare un po' chiarezza. Quindi questa settimana per me, per quello che era il mio obiettivo, io ho raccontato la mia storia sperando che potesse essere utile a chi vive questa cosa, quindi per me è andata benissimo. Senti, a questo punto ci sono anche dei riferimenti internet per saperne di più sul film? Sì, c'è proprio la pagina di Più Buio di Mezzanotte su Facebook dove ci stanno tutte le varie sale che lo danno in programmazione, quello credo sia... l'elemento più giusto da seguire, perché i dettagli si trovano proprio lì, chiaramente. Benissimo. Davide, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi, buona giornata, a presto. Anche a te, ciao. Grazie, ciao. Davide Cordova, autore del soggetto del film Più Buio di Mezzanotte, uscito in sala giovedì scorso, 15 maggio. Ritroviamo con piacere Vieri Razzini di Teodora Film per parlare con lui dell'anteprima nazionale del film In ordine di sparizione, che sarà presentato al Teatro Valle Occupato qui a Roma martedì prossimo 27 maggio. Vieri, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi di avermi chiamato. Allora, un noir grottesco norvegese molto interessante, molto interessante. Mi fa piacere che ti piaccia. Allora, sì, anch'io a Berlino è stato un grande successo di critica ma anche di pubblico, perché c'era un po' di sollievo, nel senso che è un film anche molto divertente, un film d'azione, è proprio un gangster movie, perché questo protagonista Stellan Skarsgård, credo che posso raccontare un po' di che... Sì, sì, diamo degli elementi di trama. Sì, sì. Cittadino dell'anno di questa piccola comunità norvegese, perché è quello che traccia le strade nella neve con una sua enorme spazzaneve turbina, diciamo. Muore il figlio per overdose e lui capisce che in realtà è stato ucciso. E da questo è stato ucciso con un overdose, e da questo scatena, tentando di vendicare la morte del figlio, di appurare che cosa è successo, eccetera, scatena una guerra fra due bande rivali che sono divise in territorio, diciamo, due bande di spacciatori di droga. È un film, sì, è un film per cui si è parlato dei Coen di Fargo, si è parlato di Tarantino, eccetera. E lo spirito è abbastanza quello, diciamo. Sì, lo spirito sì, è abbastanza quello, però insomma Hans-Peter Molland è un regista di primissimo ordine, non copia nessuno, diciamo, è molto, molto autonomo. Come. E poi sono questi due attori formidabili, Stellan Skarsgård e Bruno Ganz, che sì, è il capo dell'altra banda, diciamo. Sì, sì, e poi sì, c'è un giovane attore formidabile che vedrete, sinceramente in questo momento non mi ricordo neanche come si chiama, ma cioè è uno che secondo me farà strada. Ecco Vieri, sull'autore, raccontiamo qualcosa in più rispetto al suo lavoro precedente. Beh, il suo lavoro precedente, intanto in Italia i suoi film non si sono visti, però è il quarto film che fa, lui è un regista di grandissima reputazione, credo che in Norvegia sia il numero uno, ed è uno comunque dei registi di punta del cinema scandinavo, è il quarto film che fa insieme a Stellan Skarsgård, nel senso che c'è un vero e proprio sodalizio artistico e anche d'amicizia, che evidentemente dà i suoi frutti, perché in effetti questo è un film molto molto riuscito. Il cinema europeo, parliamo insomma del cinema mondiale in generale, per quanto riguarda le sale italiane, europeo più in particolare e nord europeo ancora più in particolare, trova estreme difficoltà di diffusione qui. Sai, ma si parla sempre di difficoltà di distribuzione. Ora, allargando un momento il discorso, sì, può darsi che in qualche caso sia vero, ma in qualche caso invece c'è anche una ressa di film, di piccoli film cosiddetti de sé, che poi non sono tanto de sé, ma insomma che sono un po' delle... c'è un affollamento del mercato, quindi... questa è una preoccupazione relativa. Io credo che in generale i buoni film in Italia li vediamo. Noi abbiamo una tradizione molto rilevante in questo senso, nonostante la crisi eccetera, come siamo stati per esempio la tradizione da sempre, insomma, almeno da dopo la guerra. Abbiamo sempre tradotto moltissimo di letteratura, uno dei paesi europei all'avanguardia in questo senso, insieme alla Francia, e così, voglio dire, continuiamo a importare moltissimo, quindi cioè, questo problema sinceramente io è relativo, non lo vedo molto. Senti Vieri, cosa ne pensi della tradizione cinematografica nord europea e norvegese nel dettaglio? Ma io trovo che sono una cinematografia veramente formidabile, perché la Danimarca sappiamo, insomma, poi noi siamo quelli che hanno portato Susanne Bier quando era completamente sconosciuta, finché poi è arrivata all'Oscar, e gli svedesi, noi abbiamo adesso appena comprato un film svedese a Cannes che è veramente bellissimo, che era Al Sette Regard, e questo, insomma, molto spesso vediamo delle cose comunque sorprendenti, ecco, e questo per esempio in ordine di sparizione è un film sorprendente, nel senso che ha tutte le caratteristiche del film d'azione all'americana, nel senso che proprio ti prende all'inizio e non ti molla più proprio, sì. È proprio veramente teso e veramente ben fatto, che non è facilissima, perché per esempio i francesi fanno dei film d'azione che sono però un po' più popcorn, ecco, non so, quelli con Jean Reno eccetera, sono dei film un po' più ordinariotti, magari anche molto divertenti, questo invece ha una vera dignità stilistica, e nello stesso tempo è un film molto appassionante, molto coinvolgente e divertente. Bene. Quindi insomma hanno una cinematografia piuttosto ricca, diciamo, per essere poi dei paesi piccoli, tutto, cioè geograficamente, ma insomma i norvegesi sono 5-6 milioni, i danesi sono anche lì, sono 5 milioni, sì, gli svedesi non lo so, ma non molti di più, quindi è abbastanza rilevante questo, certo, insomma, che ci sono. Poi sai che gli scandinavi sono stati la prima, sono la più antica industria cinematografica in Europa, no? Sì. Perché hanno inaugurato nel 1906, quindi nel 2006 hanno fatto il loro centenario. Qualche cosa tutto sommato vuol dire. Sì. Bene Vieri, allora ricordiamo questo appuntamento, questa anteprima nazionale del film della Teodora, che lo distribuisce in ordine di sparizione, Teatro Valle Occupato, martedì 27 maggio, ci sarei anche tu, credo, no? Beh sì, certo, per forza, non me la perdo, sicuro. Allora un abbraccio e ci si vede martedì. Grazie mille, grazie. Ciao Vieri, ciao. Arrivederci. Bene, questo era Vieri Razzini della Teodora Film, e con lui chiudiamo l'appuntamento settimanale con il cinema Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta la trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.